sanga fiti ava kwano ma emitumbo na tepka kel tala wa fanja wiz fo mekanivuto valrumbo ni fija lianga na azuza tala wiz ti madama maleme amino zambo sana che kwano che buluti fala mbatkani oh la la fiti ava kwano ma piti ni vasa ma veri veri fanaisa Kusacha amino yuza mamodi zinge Chima viza ke kefikiri kwe Chi ala kusacha amino yuza mamo Za makano, baby za makano Tisaraka Fiti ya tisikatambo Mari nyifuti angano Manga meno amezapo Erik erik matonda dano Che kwano Che uluti fala mbatkani Oh la la Fiti ava kwano mampite ni vasa Ma veri veri fanaisa Uluti fala mbatkani Oh Focha wako Disa kazare mito Vault Record.